Quell'anno, il 79 d.C., mio zio Plinio il Vecchio era a Miseno, dove personalmente dirigeva la flotta. Il nono giorno prima delle calende di settembre, il 24 di agosto, verso l'ora settima, mia madre gli mostra una nube inconsueta per forma e grandezza, e non è chiaro all'osservatore da quale monte si innalzi. Si seppe poi essere il Vesuvio. Da uomo eruditissimo qual era, egli ritenne che il fenomeno dovesse essere osservato meglio e più da vicino. Ordina allora che gli sia prestata una Liburna, un battello veloce. Mi autorizza, se voglio, ad andare con lui. Io però gli dico che preferisco restare a studiare. S'affretta proprio là donde gli altri fuggono. E già la cenere pioveva sulle navi, sempre più calda e densa. Dopo una breve esitazione, indeciso se tornare indietro, come gli suggeriva il pilota, esclama: «La fortuna aiuta gli audaci, dirigiti verso Pomponiano». Frattanto, dal monte Vesuvio in molte parti risplendevano larghissime fiamme e vasti incendi, il cui risplendere e la cui luce erano resi più vividi dall'oscurità della notte. Per calmare le paure, mio zio diceva che si trattava di case abbandonate che bruciavano. Poi se ne andò a dormire e dormì di un autentico sonno. Nel frattempo, il livello del cortile si era così tanto innalzato per la caduta di cenere e pomici che non sarebbe più potuto uscire dalla stanza se avesse più oltre atteso. Intanto già altrove faceva giorno, ma là era notte, più scura e fitta di ogni altra notte, ancorché molte fiamme e varie luci la rompessero. Egli volle uscire sul lido e guardare da vicino se fosse il caso di mettersi in mare, ma tuttavia questo era tempestoso e impraticabile. Quivi, buttatosi su un lenzuolo disteso, domandava dell'acqua e beveva per due volte. Intanto le fiamme e un odore sulfureo annunziatore delle fiamme fanno sì che gli altri fuggano ed egli si riscuote. Sostenuto da due servi, si leva e spira nel punto stesso. Dal momento che il vapore che aumentava gli impedì, così come io penso, il respiro, e gli serrò lo stomaco, già di sua natura debole, stretto e soggetto ad un frequente bruciore. Come fu giorno, era il terzo da quello della sua morte, il corpo di lui fu ritrovato intero ed illeso, con indosso i medesimi vestiti e in un atteggiamento più di un uomo che dorme che di un uomo già morto.